questo in qualche maniera conferma i dubbi che già tanti comitati per primi hanno espresso su questa questione, che il passante sia in corso di approvazione andrà la settimana prossima alla conferenza dei servizi senza alcun tipo di garanzia su gran parte di queste fantomatiche mitigazioni e compensazioni che ne dovrebbero garantire, come dire, il fatto che questo sia un passante di nuova generazione. In realtà per noi poco cambia, devo dire, nel senso che noi crediamo che non esista un passante di nuova generazione, che non esista un passante green e di conseguenza che non si possa mitigare il danno che verrebbe prodotto dall'allargamento di questa infrastruttura, e crediamo che questa infrastruttura non vada allargata, che vadano offerte ai cittadini alternative reali, sostenibili, veloci e sicure di trasporto pubblico e di mobilità dolce. In particolare le obiezioni di Autostrade si concentrano su quelle che sembrerebbero le misure di nuova generazione più avanzate tecnologicamente, come i precipitatori elettrostatici o le vernici fotocatalitiche. Che viene detto queste sono poco efficaci, ci sono dubbi sulla loro efficacia. Sì, esatto, questo è un dubbio che Società Autostrade solleva nel documento che peraltro aveva mandato il Comune di Bologna a novembre, quindi con il Comune che lo conosceva bene nel momento in cui ha portato in approvazione il passante in Consiglio Comunale. È una cosa che Società Autostrade dice a partire da un report appunto del CNR, e dice che in ambiente stradale questa tipologia di filtri che sono stati utilizzati e sperimentati anche in ambito industriale, in ambienti come le strade non hanno mai dimostrato la loro efficacia, la loro sostenibilità, e anzi comportano dei costi di gestione, dei consumi di energia molto alti. Quindi sembrerebbe, al di là del fatto che questi filtri sono previsti appunto in questa fase 2, che è ancora tutta da discutere, decidere, valutare ed eventualmente finanziare, ma già prima ancora che questa fase 2 venga discussa emergono delle forti criticità rispetto alla possibilità che queste scelte, queste proposte siano davvero efficaci per tutte dare la salute dei bolognesi. C'è poi la questione anche delle 3 gallerie che devono essere realizzate come sistema di filtraggio. Si dice che queste gallerie però poi metterebbero a rischio la sicurezza stradale. Sì, tra l'altro c'è anche un'altra questione legata a questo problema, ovvero che le corsie saranno corsie di misura ridotta, proprio perché il passante passa in mezzo alla città e lo spazio per ampliarlo più di tanto non c'è più, quindi stiamo parlando di sicurezza stradale quando poi facciamo delle scelte che vanno in direzione opposta. Ma al di là di questo, noi crediamo che la vera sicurezza stradale si possa avere nel momento in cui ci saranno meno auto che transiteranno su quel tratto stradale e meno veicoli pesanti che transiteranno su quel tratto stradale. È inutile continuare ad allargare le strade e dire che se si fa in nome dell'ambiente e della sicurezza, quando sappiamo benissimo che questo non è vero e che la sicurezza e l'ambiente si tutelano cambiando la modalità del trasporto. Voi avete in previsione una nuova mobilitazione? Sì, la rete delle lotte ambientali ha lanciato per la domenica prossima, domenica 16 gennaio, una biciclettata rumorosa appunto per protestare contro la volontà di allargare il passante autostradale. Lo faremo il 16 gennaio proprio perché il 18 si unirà la conferenza dei servizi che dovrebbe dare il semaforo verde a questa infrastruttura. Lo faremo partendo dalle 14 da Piazza dell'Unità e attraversando la città rumorosamente per far sentire ancora una volta la voce di quanti sono contrari a quest'opera. Ma dopo l'approvazione il 27 dicembre in Consiglio Comunale, quest'opera si può ancora fermare? Noi crediamo di sì, basta la volontà politica di farlo. L'ha fatto l'Austria poche settimane fa, decidendo di non realizzare più alcune autostrade che erano già state approvate e programmate, e l'ha fatto proprio sulla scorta della necessità di dare la priorità all'emergenza climatica in una città, in un territorio, in una regione e anche in uno Stato, perché lo stesso Stato italiano dice di essere impegnato per l'emergenza climatica. Noi ci aspettiamo che queste siano le scelte, ovvero che si scelga di tutelare il futuro dei cittadini e soprattutto delle nuove generazioni, invece che dare sempre il primo posto all'economia e al mercato.